Bene, buongiorno, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Transizione di Fase. Tra pochi secondi cominceremo la presentazione del libro, Specchio delle sue brame, analisi sociopolitica delle pubblicità, classe, genere, razza, età ed eterosessismo. E ci sono presenti le autrici Laura Corradi, Marta Baldocchi, Emanuela Chiodo, Vincenza Perilli, Angela Tiano e il professor Massimo Celani, docente Unical e animatore del laboratorio di comunicazione sociale all'Università della Calabria. E rimanete dunque in ascolto su Radio Transizione di Fase. Sempre le nostre fantastiche dirette da Cosenza, lo sapete, ormai sono una tradizione e tutti attendono questo libro, questa presentazione, che è un tema a noi molto caro. Radio Transizione di Fase ama molto la discussione circa le differenze di genere, perché noi siamo un po' trans, lo diciamo sempre. E ci chiamiamo Transizione di Fase non a caso. Non possiamo mandare musica perché abbiamo un piccolo problema tecnico. E intanto salutiamo il nostro caro regista esterno. Ciao Samuele. Ok, grazie a tutti per essere qua oggi pomeriggio, questo caldo pomeriggio d'estate con noi alla libreria UPIC di Cosenza. Sono Laura Corradi, una delle autrici di Specchio delle sue brame, questo libro sulla pubblicità, un'analisi sociopolitica delle pubblicità italiane e non, che riguardano come viene rappresentato il corpo della donna e non solo, anche il corpo degli uomini in maniera crescente nelle pubblicità. E diciamo che questo libro è nato da così una ricerca fatta durante la didattica, raccogliendo pubblicità insieme alle studentesse nel corso di studi di genere, un corso a rischio nell'Università della Calabria, dopo 10 anni, 12 anni di, così come sono a rischio molti altri corsi, grazie all'applicazione e alla non applicazione della legge Gelmini. Quindi abbiamo così una situazione dove una serie di studi, forse verranno, tacitati. Ma noi intanto non ci perdiamo d'animo e vi vogliamo presentare, diciamo, i risultati, di questa ricerca. I risultati di questa ricerca in un libro dell'AIDS, casa editrice, della CGIL, Collana Razzismo e Sessismo, una nuova collana che, presenta libri appunto sull'intersezione, delle problematiche di genere con altre variabili importanti, la razza, l'età, la classe, la sessualità. Quindi questa, diciamo, una ricerca che emerge, dalla didattica, verrà discussa oggi insieme alle giovani coautrici, con Vincenza Perilli che viene da Bologna, Emanuela Chiodo, dottorata dell'Università della Calabria, Angela Tiano, studentessa di master, e il professor Massimo Celani, docente di teoria dei linguaggi pubblicitari e animatore del laboratorio di comunicazione sociale presso l'Università della Calabria. Ecco, una delle questioni teoriche importanti che ha animato questo lavoro è che ci siano delle differenze sociali che diventano disuguaglianze sociali. Ci sono delle differenze di genere tra gli uomini e le donne che diventano, dentro determinati contesti, in modi, forme diverse, diventano disuguaglianze sociali. Ci sono delle differenze etniche, del colore di pelle, di cultura, che diventano disuguaglianze sociali. Quindi c'è una transizione di fase tra le differenze e le disuguaglianze. Le differenze diventano spesso motivo di disuguaglianza. E questo è un punto, diciamo, teorico importante che non abbiamo approfondito moltissimo nel libro. Abbiamo invece approfondito come queste disuguaglianze tendono ad intersecarsi, come le disuguaglianze d'età tendono anche a diventare disuguaglianze declinabili sul piano del genere, della sessualità, della razza, della classe, e come, diciamo così, non è possibile più guardare oggi al genere isolatamente. Non si può più guardare alla differenza uomo-donna senza guardare anche alle differenze di razza, alle differenze di classe, alle differenze di età, alle differenze di orientamento sessuale. Quindi questo, diciamo, riguarda un po' il nostro così impianto teorico. Giusto per dire, insomma, due punti, due concetti, due piccoli strumenti di analisi che però per noi sono stati importanti. Abbiamo applicato queste differenze al campo della pubblicità e abbiamo scoperto una cosa importante, che non è vero che le pubblicità riflettono la società, no. Le disuguaglianze sociali sono riflesse nelle pubblicità. Quindi non è vero, molto spesso si diceva le pubblicità sono uno specchio delle della società. Non è vero che le pubblicità sono uno specchio della società. Le pubblicità sono uno specchio delle disuguaglianze sociali. Non solo le rappresentano, esse anche le rafforzano. Noi ovviamente non vogliamo demonizzare alcunché, infatti abbiamo usato molto l'ironia, l'analisi dei segni, e abbiamo analizzato anche sul piano sociale, politico, quindi c'è molta sociologia, c'è molta analisi politica di tipo femminista, per certi versi. Un altro elemento importante che abbiamo così in qualche modo analizzato è che le pubblicità rafforzano le disuguaglianze sociali. A furia di ripetercele come se fossero qualcosa di bello, divertente, nel suo linguaggio accattivante, patinato, a furia di rappresentarci le disuguaglianze sociali, ce le rafforzano. Come in una doccia continua, noi siamo esposti alle pubblicità e in qualche misura, se pensiamo a quanto viene speso nelle pubblicità, in misura evidentemente anche abbastanza grossa, queste disuguaglianze sociali vengono accettate e rinforzate. Cioè le pubblicità, il sistema delle pubblicità funziona come un'ideologia, funziona come un'ideologia, rafforza lo status quo. Il consumo culturale di pubblicità è un consumo coercitivo. Noi consumiamo pubblicità anche se non lo vogliamo. Consumiamo pubblicità ogni giorno, sugli autobus, in treno, quando guidiamo, quando leggiamo il giornale, quando guardiamo la televisione, perfino quando riceviamo i messaggi sul cellulare, quando guardiamo edifici. Le pubblicità hanno invaso lo spazio-tempo, come gli ultracorpi provenienti da dove? Dalle viscere, evidentemente dalle viscere del capitale, di un capitale che ha bisogno di riprodursi e che quindi ha bisogno di costringere masse inermi di cittadini e cittadine, più o meno ricchi, più o meno poveri, a consumare il più possibile. Quindi c'è una coercizione psicologica enorme, c'è un immaginario violato. Noi veniamo normati dalle pubblicità. Ci sarà ovviamente su questi punti un momento molto hot, diciamo così, un ring con il professor Celani. Niente professore, con Massimo Celani, con il nostro amico compagno Massimo Celani, che guarderà invece le cose da un punto di vista diverso. Guarderà le cose da un punto di vista diverso. Come ripeto, noi non vogliamo demonizzare le pubblicità, semplicemente vogliamo interloquire con le pubblicità, perché il consumo obbligatorio di pubblicità è un consumo a senso unico. Noi siamo costretti e costrette ad assorbire pubblicità tutto il tempo. Queste pubblicità ci condizionano, condizionano fortemente i bambini e i loro comportamenti. Abbiamo fatto anche qualche dato. Se noi guardiamo per esempio il volume di pubblicità erogato nelle menti dei bambini durante gli orari in cui ci sono i cartoni animati, il 50% del tempo televisivo è pubblicità. cioè perché le pubblicità sono divertenti, eccetera, però le pubblicità spingono i bambini a diventare consumatori precoci. Quindi è chiaro che ci sono una serie di problemi. Qualcuno dice, ma no, le pubblicità non è vero che ci condizionano, la gente sa che quello che avviene nelle pubblicità non è vero. Invece, piccola Sara, e le pubblicità invece in qualche misura ci condizionano. Vengono spesi miliardi nelle pubblicità. Abbiamo guardato un po' quanto vengono a costare minuti televisivi in Stati Uniti durante le partite, durante e veramente vengono spesi troppi soldi nelle pubblicità. Troppi soldi per ingannare la gente, sostanzialmente. Il linguaggio pubblicitario può essere usato in un altro modo? Può essere usato per fare prevenzione? Può essere usato per promuovere la salute? Può essere usato, queste tecniche possono essere usate diversamente, che non per farci ingoiare l'idea che dobbiamo comprare per essere. Rispetto al corpo della donna abbiamo fatto un discorso, diciamo così, un po' più approfondito, ovviamente. Le donne sono consumatori... quanta gente! Le donne sono consumatori... e consumatrici evidentemente target particolare delle pubblicità. In effetti molte pubblicità sono dirette a perfezionare il corpo della donna. Le donne non si possono accettare così come sono, non si possono accettare con dei cuscinetti di grasso sui fianchi. I lavori sono sempre in corso per il corpo della donna. Non è possibile accettare... Buongiorno. Non è possibile, siediti. Non è possibile accettare di avere della cellulite. La cellulite è diventata una malattia da combattere con ogni mezzo. Non si può avere il colore dei capelli naturale. Se hai i capelli bianchi li devi nascondere in qualsiasi modo. Io devo dire, da quando non mi tingo più i capelli mi sento molto più libera e molto più felice. Ho imparato a giocare con i miei capelli bianchi anziché essere terrorizzata dall'idea che si vedesse la crescita. Cioè, secondo me è importante anche non specchiarsi più nelle brame di un potere capitalistico, patriarcale, eterosessista, razzista e anche discriminante sul piano dell'età, che si dice ageist. È possibile allontanarsi dallo specchio e stare fuori portata dalle sue brame. È possibile specchiarsi in altre cose, in cose più naturali, in valori diversi, in cose che ci danno la felicità, anziché l'angoscia di dover rincorrere dei modelli che sono frutto di Photoshop, sostanzialmente. Modelli di donne anorressiche, malate, infelici. Cioè, noi non ci specchiamo in quello, noi non vogliamo essere quello. Quindi... diciamo che abbiamo voluto fare un lavoro, sì, ironico, di decostruzione politica, semiotica, sociale, ma anche un lavoro sovversivo, cioè dire che non ci stiamo dentro a questi limiti, dentro questa gabbia di filo spinato dove vogliono normare e disciplinare i nostri corpi e farci diventare tutti come delle autome che seguono, no, i consigli per gli acquisti perché vogliono diventare così o colà. Ecco, so che questi sono argomenti scottanti, li ho toccati in maniera così molto introduttiva, li ho buttati lì giusto per provocare un po' anche le persone presenti, e vorrei dare per qualche minuto la parola alle giovani autrici che hanno pubblicato dei contributi in questo libro, Vincenza Perilli, che parlerà delle pubblicità razziste e sessiste, perché appunto abbiamo detto che le pubblicità non sono mai solo sessiste, sono anche intersecate a livello di età, di razza, di classe. Poi Manuela Chiodo parlerà delle pubblicità classiste, del classismo nelle pubblicità. Sono sempre tutti ricchi nelle pubblicità, tutti ricchi, euforici, felici, no? La povertà è oscena, non si può essere poveri, non si può essere vecchi, e quindi lei parlerà un po' di questo tema. Angela Tiano invece parlerà dell'eterosessismo. Il fatto che le pubblicità sono tutti eterosessuali, o se non sono eterosessuali, come sono? Non sono certo come sono le persone vere non eterosessuali. Quindi parliamo un po' di queste cose, lasceremo poi la parola al nostro amico Massimo Celani. No, non alla fine. E poi noi faremo una replica, perché ovviamente le cose... L'avete già ammutinato. L'abbiamo già ammutinato. Io sono venuta per difendere. Sì, meno male, c'è anche la professoressa Chiricò che farà la difesa d'ufficio di Massimo Celani, che difenderà le pubblicità. Quindi sì, il ring è molto ricco. Accogliamo Vincenzo Perilli, che viene da Bologna. Grazie. Allora... Ora, grazie, non mi dilungherò molto, anche perché siamo in tanti, e, tra l'altro poi non voglio rubarvi poi il piacere, insomma, di leggere il libro, quindi pensavo di spiegarvi solo quello che mi interessava mettere in luce, cioè quello che mi premeva, insomma, scrivendo questo terzo capitolo sul sessismo e razzismo in pubblicità. Anzitutto il fatto che nelle immagini pubblicitarie, che come sappiamo hanno un forte potere di seduzione, persuasione, circolazione, queste immagini non sono solo il sintomo, no, di violenti rapporti di dominio, ma giocano proprio un ruolo attivo, forte, nella produzione di queste stesse categorie, e questo, insomma, mi sembrava un punto molto, molto importante. Nello stesso tempo volevo appunto mettere in luce come questi sistemi di dominio si articolano uno con l'altro. Altra questione è che nell'articolarsi questi diversi sistemi di dominio nei messaggi veicolati dalle pubblicità subiscono però delle trasformazioni e torsioni continue, che dipendono poi da diversi fattori, no? Quindi sia la multiposizionalità dei soggetti che sono coinvolti, ovviamente, sia dalla lotta agguerrita, che comunque vi è sempre, no? Tra questi rapporti di dominio e le pratiche, insomma, di resistenza messe in campo sia individualmente che collettivamente dai soggetti che sono di volta in volta coinvolti in questo, ma ovviamente poi cambiano. Volevo anche eventualmente, vabbè, cambiano anche a seconda appunto del periodo storico, del contesto geografico, quindi c'è questa mutevolezza, no? Quindi questo rende anche poi molto difficile trovare poi delle maniere efficaci sia di opporsi, no? E di criticare, proprio di fare una critica poi che sia efficace a queste immagini pubblicitarie, e si trovare poi delle forme, possiamo dire così, di resistenza, no? Alle immagini stesse. Per cui, visto che era questo che mi interessava, nella scelta delle immagini non ho puntato a le immagini che potevano, come dire, essere più razziste o sessiste, no? Avrei potuto sceglierne alcune dove il fatto che siano razziste o sessiste è molto più lampante, ma non era questo, no, quello che mi interessava, ma appunto mostrare questa mutevolezza, mostrare come certi modelli, un certo modello di femminilità bianca, per esempio, e un certo modello di femminilità nera, che nel corso proprio di 100 anni, insomma, e più di immagini pubblicitarie, perché insomma le prime immagini pubblicitarie possono essere individuate proprio nei manifesti con i quali i negrieri annunciavano, no, la vendita di schiavi e schiave, ce ne sono di bellissimi, insomma, tra virgolette. Qualche anno fa c'è stata questa mostra molto grande, insomma, in Olanda, proprio su queste primissime forme pubblicitarie, insomma, razziste. E quindi in questi 100 anni come questi modelli si sono correlati, rafforzandosi reciprocamente a seconda poi di quello che doveva essere il prodotto venduto e di quello che poi era l'acquirente. Insomma, per rendere un po' più esplicito quello che vi sto dicendo, faccio un piccolo esempio, forse non sarebbe male vedere le immagini, però non ricordo la sequenza, poi magari io parlo, poi magari se le facciamo scorrere, forse poi magari arrivano. Per esempio, molti studi, insomma, classici, no? Fatti in particolare, insomma, da storici, anche la Sorgoni, quindi un'antropologa, insomma, sul periodo coloniale, sulle immagini, sulla fotografia del periodo coloniale, storia che, come sappiamo, è anche storia, insomma, italiana, anche se spesso tendiamo a dimenticarlo, le donne altre, le donne somale, le donne eritree, per esempio pensando appunto all'Italia, erano rappresentate in una maniera, insomma, che oscillava tra queste immagini dove queste donne erano molto, insomma, seduttive, pensavano, insomma, molte fotografie, ma anche illustrazioni del periodo che riguarda il periodo coloniale, insomma, in Libia, no? Italiano, quindi il fascino dell'harem, del velo, che ritroviamo poi, insomma, in precedenza poi anche in tanta pittura orientalista. Quindi da una parte appunto questo potere di seduzione della donna indigena, dall'altro invece la sua sessualità sfrenata, quindi che addirittura poi arrivava in certi momenti quasi a rappresentazioni della donna, ad esempio africana, in maniere molto, una sorta di animalizzazione proprio del corpo della donna nera, no? E un esempio potrebbe essere appunto l'essere presentato come deforme, come della Venere ottentotta, che forse molti di voi, insomma, hanno presente, perché recentemente è stato anche fatto un film, insomma, molto, molto bello. Quindi questa è una cosa che vi... Ecco, però se andiamo appunto a vedere un po' la produzione, insomma, di immagini legata per esempio al tema dell'animalizzazione, vediamo che è un tema che sicuramente è significativo per quanto riguarda appunto le donne africane, insomma, nere, ma è stato anche un tema precedentemente usato rispetto alla donna bianca. E questo poi dei residui rimangono poi, no? Degli elementi poi rimangono fino alle pubblicità, diciamo così, odierne. Ora, perché questo, no? Questo slittamento da questa dalla donna bianca alla donna nera? Perché a un certo punto, proprio con l'esperienza coloniale, quando poi la donna bianca doveva essere praticamente eletta madre della nazione, doveva essere sbiancata, è proprio il termine che adopera praticamente un'autrice francese che si chiama Elsa Dorlan, che ha lavorato su questa questione in relazione proprio alla costruzione della nazione francese. Quindi una serie di elementi che prima erano patrimonio dell'immagine, no, della donna bianca, vengono progressivamente trasferiti sulla donna nera, perché altrimenti appunto non ci poteva essere la donna bianca come madre della nazione. E niente, quindi vi invito, insomma, a leggere il libro, poi eventualmente ritornerò poi sul tema dopo l'intervento di Celani, e passo la parola a Marta Chiodo. Grazie. Io davvero per minuti, il mio è davvero un piccolo contributo nell'analisi complessiva condotta in questo testo, e soprattutto si trova nell'ambito di un capitolo scritto a quattro mani con Laura Corradi. Il mio contributo si è tradotto essenzialmente nell'individuare alcune direttrici teoriche, tra le tante possibili, tra l'altro, con cui procedere ad una lettura classista delle pubblicità In che senso? Una lettura cioè delle rappresentazioni delle disuguaglianze economiche e sociali, condotta poi appunto nel merito di alcuni spot significativi da Laura Corradi. Piuttosto che utilizzare l'ampia letteratura sulle classi e sulle disuguaglianze, ho cercato appunto un concetto di sintesi che potesse essere utile all'analisi. E questo concetto di sintesi è stato appunto offerto dalla distanza sociale, dalla categoria di distanza sociale, che appunto in sociologia ci aiuta a descrivere quelle dinamiche di evitamento, di allontanamento, di chiusura relazionale dei soggetti rispetto ad altri considerati differenti sulla base della loro possibilità di essere ricondotti a specifiche categorizzazioni sociali. Quindi in base a questa premessa abbiamo considerato lo spazio pubblicitario appunto come quello spazio simbolico e semantizzato in cui si riproducono quei processi di gerarchizzazione e categorizzazione di status tra i gruppi sulla base appunto del reddito, del potere e del prestigio. Guardare allo spazio mediatico e alla pubblicità con la prospettiva della distanza sociale ha permesso quindi di puntare l'attenzione sui processi di distanziamento e avvicinamento tra gruppi appositamente allestiti, scriviamo nel testo, dalla pubblicità per raffigurare la dinamica sociale e quindi co-costruire stereotipi di classe. Chiaramente i riferimenti teorici utilizzati sono diversi. Landowski scriveva che il discorso pubblicitario è soltanto uno tra i discorsi sociali attraverso noi ci rappresentiamo la realtà. L'abbinamento però nel discorso pubblicitario tra immagine e testo produce una particolare figurazione dei rapporti sociali che appunto negli spot, nelle immagini che abbiamo analizzato, hanno questa figurazione appunto gerarchica tra classi. In termini più semplici appunto abbiamo scritto la classe non è acqua, nel senso che è evidente, si evidenzia all'interno di alcuni spot significativi che abbiamo identificato, e nella nostra analisi appunto una pubblicità classista non è solo quella che marca le differenze accentuando le categorizzazioni possibili in termini di simile, dissimile, vicino, lontano, upper, lower, ma anche quella che le cancella rendendole invisibili, quindi omogenizzando sul livello medio-alto i discorsi e le rappresentazioni del mondo sociale. Per esempio, in riferimento a questo abbiamo utilizzato lo spot di Italia, quello più che noto sulle differenti classi di servizio. Quindi ci sono stati tantissimi commenti sulla rete allo spot, sicuramente conosciuto da tutti. Appunto, nelle classi di viaggi nello spot di Trenitalia, secondo appunto la nostra prospettiva di distanza e quindi di avvicinamento e distanziamento, più che differenze di servizio ritraggono spazi di distinzione e autopreservazione, quindi isole di identità per i passeggeri che le occupano. Abbiamo specificato che il classismo nelle pubblicità non passa solo attraverso la promozione di consumi vistosi e l'esaltazione dello stile di vita delle classi agiate, ma anche dalla normalizzazione e dall'incentivazione di un approccio di lusso alla quotidianità, prodotti non straordinari ma straordinarizzati, come parlano gli esperti del settore del lusso accessibile, sono lo strumento quindi di una distanza agita per la pubblicità rispetto a chi non può accedervi. Ovviamente in questo caso la comunità esclusiva di quelli che banalmente una sciame di consumatori, no? Sono appunto, costituiscono una comunità esclusiva nel senso che possono accedere alle dinamiche di consumo, e la distanza dalla povertà, in questo caso appunto nel caso di un approccio di lusso, della pubblicità alle dinamiche sociali, alla realtà sociale, la distanza alla povertà appunto è massima perché è completamente cancellata. Abbiamo fatto un riferimento, quindi devo citare una parte dell'analisi di Bauman, qui diciamo, ho fatto Laura Pepper alcuni degli spot analizzati. Per esempio, abbiamo fatto anche richiamo alla campagna del Ministero delle Finanze, parassita della società. In quel caso la povertà, o comunque uno stile lower, no? È stato utilizzato per dipingere un fenomeno che appunto interessa, penso alla grande evasione, i grandi capitali, e quindi diciamo non è stato possibile in quel caso ritrarre o utilizzare riferimenti up delle classi alte. È presentato il protagonista con uno sguardo inespressivo, una mimica facciale poco intelligente, uno sbarbato, con un atteggiamento che è più quello di un derelitto o di un detenuto che di un astuto evasore fiscale. Forse qualcuno di voi le ha viste queste pubblicità, parassita della società, l'hanno visto tutti. Sembrava un evasore fiscale? No, un metalmeccanico disoccupato. Sembrava un idraulico, sembrava meridionale ovviamente, come ho scritto. Pelle scura, no? Può essere un immigrato o un cittadino dell'Italia del Sud, quindi è fortemente classizzato, razzizzato, no? E non è, a mio avviso, lui il prototipo dell'evasore. Il prototipo dell'evasore è qualcuno in giacca e cravatta, qualcuno che è alto professionista, qualcuno che assomiglia moltissimo a quelli che hanno deciso che questa sarebbe stata la campagna del Ministero per tirar su quanto? 20.000 miliardi, solite cifre paraboliche, no? No? Pensavano di tirar su facendo vedere che è l'idraulico che non rilascia la ricevuta, è il benzinaro che non... Quando invece il problema, sappiamo benissimo, è la grande evasione. Quindi c'è proprio tutta una meccanica di classe dove le pubblicità, il linguaggio pubblicitario, viene usato anche per scapegoat, cioè per trovare un capro espiatorio. Cioè lì quella campagna non serviva a tirare su i soldi degli evasori fiscali. Quella campagna serviva a dire: se mancano i soldi, se adesso tutti dobbiamo tirare la cinghia, è per colpa di gente come questo qua, è per colpa del piccolo artigiano che non rilascia la ricevuta, non è colpa di altri professionisti, imprenditori, gente che ha rubato a man bassa. Quindi, nelle banche medesime, banchieri, gente che ha fatto bancarotta, cioè i grandi ladri, quelli non li mettono in galera, però ci additano in questa campagna ossessiva, il parassita della società, il parassita del pesce, il parassita del legno, il parassita del culo, e poi ci fanno vedere, no, quest'uomo assolutamente... sì, cioè, le orecchie, gli occhi, cioè un individuo totalmente inferiorizzato. Ecco, quindi cioè, c'è questo elemento proprio di classismo della pubblicità stessa, no? Poi anche questa del treno, vi ricordate quella di Trenitalia, dove fanno vedere nella prima classe le famiglie ben vestite, eccetera, e invece nell'ultima classe le persone, no, immigrati, giovani, eccetera, no? Quindi una divisione di classe, di razza, di etnia, di un certo tipo. Ecco, questo ovviamente ci può far ridere. Oppure il lusso è un diritto, vi ricordate Castelli? Il lusso è un diritto, no, il lusso è un diritto, tutti possono comprarsi una macchina, chi non se la compra è un pidocchioso, è questo il messaggio, no, che viene mandato. Chiuderei adesso la parola invece a Angela, che ci racconta invece se tutte le famiglie sono come quelle del Mulino Bianco, se sono tutte famiglie eterosessuali con il marito, la moglie, perché comunque la pubblicità è anche eteronormativa. E quindi Angela ci racconterà un attimo questa parte del libro. E poi daremo la parola a Massimo Celani. Grazie. Allora, io volevo prima ringraziare Laura per avermi dato appunto... Si è chiuso? No, è acceso. Ah, ok, si sente? Sì. E volevo ringraziare Laura Corradi per avermi appunto dato la possibilità di fare questa esperienza. Al di là del saggio, però, è stato, diciamo, un percorso faticoso, però comunque bello, che ho accettato perché alla fine l'ho preso come un gioco ed è stata veramente una bella esperienza. Allora, il saggio che ho scritto sull'eterosessismo l'ho scritto insieme alla professoressa Marta Baldocchi, che adesso non è presente, l'abbiamo scritto diciamo a distanza dagli Stati Uniti all'Italia, quindi tramite Skype, tramite email, e anche questa è stata anche una bella esperienza. E il mio saggio, allora, non vorrei dire proprio tutto quello che c'è nel saggio, altrimenti dopo, cioè, non avrebbe senso comprare il libro. E quindi vorrei dire innanzitutto le domande che mi sono posta all'inizio prima di scrivere questo libro. Le domande di partenza sono state innanzitutto se le realtà LGBT vengono rappresentate o meno all'interno delle pubblicità, e se vengono rappresentate in che termini vengono rappresentate, in che senso, nel senso se rispecchiano e quindi rispondono alla realtà oppure se sono legate a immaginari. E nel libro poi sono spiegati anche che tipi di immaginari la pubblicità, diciamo, veicola e pubblicizza all'interno della società. Come diceva Laura all'inizio, non è vero che la pubblicità rispecchia la società. Perché? Perché secondo la ricerca di Barbagli Colombo, che hanno effettuato in tutta Italia, non risulta e non rispecchia assolutamente quello che sono le pubblicità, che sono per lo più eteronormative, eterosessiste, e non rappresentano per niente quella che è la realtà LGBT, perché l'Italia è formata da tantissime coppie omosessuali, lesbiche, transessuali, e da tante famiglie ricomposte, eccetera, quindi di coppie gay e lesbiche che hanno comunque dei figli. Io volevo iniziare citando una citazione che è all'inizio del saggio, che è il quarto capitolo, così un po' da riassumere la motivazione iniziale che ha spinto insomma poi a scrivere questo saggio. È un po' lunga, però spero che insomma abbiate un po' di pazienza. Vabbè. Allora, madri e padri si aspettano che i loro figli siano ovviamente eterosessuali, anzi neppure considerano l'eventualità di poter avere un figlio omosessuale. Anche le fiabe, Cenerentola non può che andare col principe azzurro, i giocattoli, Barbie non può che avere Ken al suo fianco, o i cartoni animati, Licia non può che avere la sua love story con Mirko, partecipano a questa esclusione dell'omosessualità come un possibile orientamento sessuale. La persona omosessuale che fin da piccola vive tale scontatezza e obbligatorietà dell'eterosessualità, avvertendosi diversa, facilmente si sentirà confusa o peggio si reputerà malata. Allora, questo è un po' il riassunto della motivazione che mi ha spinto a scrivere il saggio. Perché? Perché un adolescente che guarda le pubblicità dell'omino bianco, un adolescente che inizia comunque ad avere delle attrazioni per una persona del sesso uguale al suo, che sia uomo o donna, cioè vedendo la famiglia del mulino bianco, quindi un padre, una madre, e sempre ci sono due figli, combinazione un bambino e una bambina, è normale che si senta comunque escluso da quella che è la società, è normale che abbia delle difficoltà a dire ai genitori di essere gay, di essere lesbica, e di aprirsi comunque agli amici, in famiglia, e di vivere la vita come che andrebbe vissuta, cioè trasparentemente. Perché la pubblicità attente, se appunto rende visibili persone gay e lesbiche, a normalizzare il fatto che siano lesbiche, che siano gay, cioè in che senso? A renderli comunque accettabili alla società. E quindi che fa? Praticamente prende quelli che sono i canoni dell'eterosessualità, quindi l'eteronormatività perme all'interno delle pubblicità, e quindi abbiamo degli stereotipi che sono gli stereotipi classici sui gay e sulle lesbiche, quindi lo stereotipo sull'identità di genere, quindi vediamo delle lesbiche, magari una donna vestita da donna e un'altra donna vestita da uomo, quindi è uno stereotipo sull'identità di genere. E infatti il saggio, diciamo, che è diviso in due parti, cioè la prima parte è quella che appunto fa, diciamo così, una panoramica sulle pubblicità, che ovviamente sono soggettive, quindi un'analisi mia e di Marta, che ovviamente non sarà per tutti la stessa cosa, però il nostro occhio è stato magari scovare delle cose all'interno di queste immagini dove magari altri magari non vedranno nulla, però era, cioè, fatto proprio di proposito, perché appunto delle pubblicità apparentemente innocue, tipo la famiglia della Mulino Bianco, cioè là nessuno vedrebbe qualcosa di omofobico, vedrebbe una famiglia della Mulino Bianco, punto. E quindi la prima parte del saggio appunto è sull'eterosessismo e l'eteronormatività, e quindi i cliché su non tanto i cliché, però praticamente il fatto di cambiare quelli che sono la realtà delle persone gay e lesbiche, e quindi abbiamo la normalizzazione della lesbica, quindi la lesbica chic o la hot lesbian, che significa che la lesbica viene resa più possibile vicina all'immagine di quella che è la donna eterosessuale all'interno della pubblicità. Quindi bianca, magrissima, bellissima, depilatissima, sempre alla moda, truccatissima, viene resa, la lesbica viene normalizzata, quella che è la figura della donna eterosessuale, per essere comunque, diciamo così, visibile all'interno della pubblicità, e viene anche resa appetitosa, tra virgolette, per gli uomini, perché se ci sono due donne presenti all'interno della pubblicità, e ce ne sono tante, nel testo sono citate la pubblicità, la campagna di abbigliamento di Silvia Nietzsche, Dolce & Gabbana, dove sono presenti delle donne in atteggiamenti intimi, sono presenti in un certo senso in un modo che è quello che alla fine, diciamo, è il sogno erotico di tutti gli uomini, quello di stare insieme a due donne. Infatti sono atteggiamenti comunque che normalmente due lesbiche non assumono in un parco. C'è una foto di Silvia Hitch dove queste due donne, sempre comunque vestite in modo molto provocante, non come diciamo tutte le lesbiche, anche se ci sono anche le lesbiche che si vestono in quel modo, che hanno degli atteggiamenti molto molto succinti, non succinti, però diciamo ammiccanti, o forse anche di più che ammiccanti, in mezzo in un giardino. Questo non rispecchia per niente quello che è la realtà, insomma, delle coppie sia lesbiche che gay. Anche delle donne non gay, no, è giusto, anche delle donne non gay, però come messaggio... Esatto, sì, brava, però come messaggio prende e rende, voglio dire, no? Agli uomini piace, e magari, non so, si vorrebbero trovare, insomma, tra queste... Esatto. E la seconda parte del saggio, invece, diciamo, si riferisce alle pubblicità, agli stereotipi e all'omofobia nei confronti, appunto, dell'immaginario LGBT, e appunto, come dicevo prima, gli stereotipi sull'identità di genere, sul comportamento sessuale, quindi a delle pubblicità che anche contrappongono le pubblicità eterosessuali all'amore e le pubblicità, diciamo così, LGBT alla trasgressione, quindi uno stereotipo classico. Quindi le pubblicità sull'anello di fidanzamento compaiono sempre coppie eterosessuali, quindi se c'è un anello da sponsorizzare c'è sempre la coppia eterosessuale. Per quanto riguarda la trasgressione, il sesso, quindi magari pubblicità come quella di Dolce & Gabbana su Stupidi Gruppo, compaiono appunto la promiscuità, la trasgressione e il sesso. E niente, questa è un po' la panoramica del saggio. Le conclusioni, appunto, è che ci sono purtroppo degli stereotipi e dei cliché che la pubblicità manda avanti, che non rispecchia assolutamente la realtà e che forse danneggia, non forse, danneggia sicuramente non solo le adolescenti, ma tutte le persone che comunque vorrebbero vivere il proprio orientamento sessuale normalmente, sì, come le coppie eterosessuali. Grazie. Va bene, abbiamo dato così tre piccoli assaggi, tre piccoli aperitivi del libro, da quelli più dotti e analitici a quelli più freschi e diciamo così immediati. Purtroppo Marta Baldocchi non può essere con noi oggi perché sua mamma è malata e lei è a Milano, ma come diceva Angela insegna all'Università di Stanford in California, è lecturer, insegna italiano a Stanford, è uno dei tanti cervelli che sta all'estero e purtroppo non può essere con noi oggi qua in Calabria, sua mamma è malata a Milano. Quindi adesso darei la parola al nostro Massimo Celani che ci dirà tutto quello che non va nel nostro libro. Per favore, se puoi parlare in tutti e due i microfoni perché ci stanno ascoltando da Radio Transizioni di Fase. Dunque, questo è il livello audio, va bene per la radio? Io ho un cattivissimo rapporto con la parola in pubblico e non so se c'è ancora in pubblico. No, ha detto pubblico. Era un traudire. Non so se c'è ancora collega. No, di recente ho pasticciato, cioè che faccio? Ho paura di parlare a braccio e me ne vengo con dei fogliettini, perché così è un po' tutto più... Poi in realtà finisco che non li leggo e faccio peggio. Vabbè, comunque, ci provo. Allora. Sì, sarebbe l'algoritmo migliore, però sarebbe noiosissimo, credo anche. Cioè, è meglio esporsi a qualche rischio, che io possa dire qualcosa che, no, che mi scappa. Insomma, d'altra parte non credo alla padronanza del linguaggio, della parola. Allora, così, sulla soglia, è la prima volta che ci incontriamo, dico, le autrici e il discutente. Vero, eh? No? Ci incontriamo qui per la prima volta, il che sgombra il campo da qualsiasi teatrino cerimonioso, complimentoso o accademico. Oltretutto credo che sia per questioni sociologiche sia per stile nessuno lo sia accademico. Per quanto mi riguarda aggiungo che non posso nemmeno considerarmi precario, magari, no, triste destino dei contrattisti, e da quest'anno non ho più rapporti con l'università. Beh, non so, no, comunque niente di eroico, cioè nel senso che l'università che non ha più rapporti con me mi spiace solo che Nuccio Ordine ne sarà lieto, magari. Allora, sì, che non stravede, diciamo, per il sottoscritto. Ringrazio comunque per avermi eletto a discutente, solitario, supposto contro discutente, perché è un gesto al buio e all'insegna dell'ospitalità. Spero di ricambiare, perché leggere un libro, un testo, anche quello è aprirsi al discorso, certo per travisarlo, santo Harold Bloom, il mio miscrivere è generato da una mislettura, ma resta pur sempre ospitalità per le parole dell'altro. In questo c'è reciprocità, no? Io ho ospitato in pochi giorni di tempo le parole del vostro libro, e adesso vi tocca ospitare le mie qui. Non so di rispecchiamenti, so che c'è una fase cosiddetta dello specchio nelle topologie lacaniane, che ha un ruolo di anticipazione nella costruzione dell'io, e più in generale guardo con sospetto tutto ciò che attiene all'immaginario. In quelle topologie, diciamo, di Lacan, appunto, i tre registri, insomma, no, sono il simbolico, l'immaginario e il reale, insomma, e conta per l'intersecazione, anche quella lo è, ma non è proprio ben visto, diciamo, no, perché è qualcosa che appartiene al fantasma, anche se al desiderio. La questione è un po' più complicata, ma non voglio spostarmi interamente su un segmento psicanalitico. Certo che però io sociologo non sono, quindi, diciamo, mi dovete perdonare anche un approccio, insomma, è comunque eterodosso, distante da quello da voi praticato. E, insisto un attimo ancora, ma proprio un secondo, ricordando quando Lacan venne in Italia, a Roma e a Milano. Faccio un po' di novella 2000, insomma. Sapeva che in platea ad ascoltarlo c'era Giacomo Contri, che era uno psicanalista importante, che in seguito divenne uno dei suoi traduttori, anzi il traduttore, col testo stabilito da Jacques Alain Millet. E Lacan sapeva che Contri faceva parte di un'organizzazione chiamata Comunione e Liberazione, e lo canzonò pesantemente. Contri, mi faccia capire, cosa c'entra la comunione con la liberazione? Sicuro di quella E, comunione e liberazione? Non è che dovrebbe dirsi o comunione o liberazione? Oppure comunione o liberazione? In un bel, insomma. O magari comunione versus liberazione? E andò avanti parecchio a sfottere in questo. c'era tutto, no? A quell'epoca, no? Cioè, c'erano Facchinelli, le cose, tutti, insomma, c'erano quelli bravi e c'erano i cialtroni, ma c'erano pure quelli bravi. La canna amava Facchinelli. Sì, amava Verdiglione, devo dire, sì. Il terrone Verdiglione era uno dei preferiti, però adesso questo, sì, per quanto fosse matto le cose, però era uno dei preferiti. Vabbè, però questo sempre per stare sul gossip di Caulonia, no? Il nostro... Vabbè, questo non c'entra, ci depista. E quindi andò avanti parecchio così. Ed è, diciamo, un qualcosa che mi ricorda, è mimetico, è vicino anche a quanto Lacan diceva nel 68 ai giovani contestatori, ai quali era peraltro molto vicino. Li rimproverava di un'ingenuità strutturale, soprattutto a chi inneggiava a un fuori dalla struttura, a un esterno del linguaggio. E bonariamente a Vincent li rampognò: come rivoluzionari voi aspirate a un padrone. E l'avrete. E era già molto diffusa la retorica dei fatti, o meglio, dei fatti non parole, no? Del passaggio all'atto ai fatti. E ricordo l'episodio. Per dire che non c'è comunque liberazione dal linguaggio. Dal linguaggio non si esce. Allo stesso modo non si può uscire dalla retorica. Inutile, non voglio tediarvi con, no, gli esempi, diciamo, che poi sono i trucchetti della retorica in fondo, no? No? Legati alla metonimia, alla catacresi, per cui questo sono le zampe di un tavolo, i piedi, è chiaro che sono tutte metafore di cui non percepiamo più il valore metaforico, sono metafore consumate, sono catacresi. Così come a tavola noi evidentemente ci intendiamo benissimo quando ci diciamo magari passami il sale, no? O passami l'acqua, letteralmente non sarebbe possibile, ma evidentemente stiamo scambiando il contenitore col contenuto e viceversa. Quindi direi che dovremmo un po' rassegnarci al fatto che non si possa uscire non solo dal linguaggio, dalla retorica, ma inevitabilmente dalla pubblicità, perché la pubblicità io l'intendo, almeno per come l'ho cercato di trasmetterne il laboratorio, facendola, smontandola ai ragazzi in questi 12-13 anni qui fra Salerno e poi qui ad Arcavaceta. La pubblicità è una retorica verbovisiva, non è nient'altro che questo. Dico dal punto di vista della scatola, intendetemi, poi e anche tante altre cose, comprese quelle che scrivete nel libro. Certo, inevitabilmente. Però io mi occupo di questo, mi sono occupato di questo, della retorica che, come dire, che prende insieme, incastra gli elementi visivi, fotografici, adesso soprattutto, insomma, con il testo, in una presa d'assieme. E delle isotopie che si generano. Io, diciamo, isotopia è un concetto, diciamo, della semiotica letteraria, ma diciamo che la pubblicità è un'iperisotopia, perché trascende il semplice, il dire sempre la stessa cosa, incastrarla, no? Ma essenzialmente fra elementi visivi e testuali, sempre di più quelli visivi, un po' meno quelli testuali, poi, a seconda poi dei periodi storici. Ora, non credo ci sia la possibilità, no, come diceva Laura prima. Josy, buonasera, che piacere vederla. Dice, ma c'è una pubblicità buona, insomma, allora non ci possiamo sottrarre per tanti motivi. E ce n'è una buona, sì, c'è quella anche, come detta, sociale, di sensibilizzazione, la comunicazione al cittadino, anzi direi che questo andrebbe forse premesso. Io ho tanta esperienza, ma da dilettante, no? Cioè, nel senso che sto 30 anni che più o meno mi occupo di questa cosa, ma non ho mai lavorato nelle grandi agenzie, cioè sono mestierante. Poi c'ho anche un'idea alta del dilettantismo, cioè nel senso che il professionismo mi fa un po' schifo, e credo con Bart che sia una posizione giusta quella del superamento, no? Di trovare del godimento, del diletto, no? Quindi nel avere un altro mestiere per non inebetirsi con uno solo, quindi cioè, non sono tanto ingenuo, però mi considero un dilettante, anche perché poi la pubblicità, te lo devo dire, a Cosenza fa ridere, perché non essendoci le industrie, non essendoci i soldoni, la pubblicità non è nemmeno a Roma per farci, insomma, per capire, perché è giusto, insomma, la questione è legata ai soldi terribilmente. Però questo a me sembra anche un po' scontato, però ci ritorniamo fra un attimo. Vorrei farvi circolare, perché insomma io credo di essere capace di passare, non mi chiamate postmoderno in questo, ma lo fate diffondere, uno anche qui all'aula. Forse c'è anche il retro, però adesso guardiamo quelle del Carrefour. Sono capace di passare, insomma, dalla Cannes al Carrefour, il Carrefour, cioè al Gran Sole. Il Gran Sole. Mia moglie mi diceva, sono andata al Carrefour, io non capivo, lo diceva stretto, no? Lei è francofona. E dico, ma Maria, tu sei ingiuta? Al Carrefour io non lo sentivo, perché sono pure sordastro, sono vecchietto, sono sordastro, non capivo. Poi francese pure, Carrefour. Ah, dico, vabbè, ho capito, ma risegnutare un Gran Sole. Allora, ora osservate che in questa cosa è evidente che è quello che dicevo prima, non se ne esce. Questo sarebbe il segmento delle smarche, ecco. Cioè, io vedo che nel libro avete fatto riferimento alla marca, no? Sì, pure. Sì, ma stiamo su questo, su Voici le caffè. Ce l'avete? Vi è arrivato? La stessa struttura è stata fatta per, non so, Voici, l'œil, come si dice, olio? Will. Scusa, ma... Vabbè, ma io sono da Cosenza, quindi cioè, la moglie un poco mi sta civilizzando, ma insomma, ma io sono di Cosenza. Allora, ecco il caffè, no? Così il caffè. E vedete com'è? E poi la specificazione secca. Guardate, questa è di uno bravo, questo è di Seghelà, questo è di Seghelà. Guardate come ce l'ha dimostrato, dire, in maniera geometrica. Anche laddove non c'è la marca, no? Il prodotto acquista una personalità. E il caffè, noi con l'iterazione in realtà stiamo dicendo un caffè buono, anche se stiamo rinunciando a tutta la prosopopea della personalità di marca. E ce lo scandisce, che ci dice? Ci dice, sono i prodotti senza nome, ugualmente buoni, meno cari. Meno cari perché non spendiamo soldi in pubblicità. Queste sono le pubblicità... No? Vedete come... però diventa più interessante messa così, no? Quindi la povera Klein si attacca, perché insomma non se ne esce, anche la non marca, la smarca, no? Poi di fatto è il Carrefour, quindi il distributore, la marca del distributore, che comunque a un certo momento dice... Oh, e si appella a un discorso più razionale. Tu dici, ma perché dovete spendere più, no? Dici, io non ci faccio pubblicità, i prodotti controllo io, sono buoni, no? E questa è una cosa, questa è molto vecchia, questa pubblicità. Poi ovviamente poi siamo abituati anche a questo, cioè alla non marca, alla smarca, alla rinuncia al nome, quindi alla rinuncia alla retorica, ma non ne usciamo, come vedi, Laura. Perché anche in questo caso io mi sto costruendo un'altra marca, che è quella insomma, che si indirizza non al cuore, non agli ideali, non all'estetica, una cosa, cioè prodotti spartani, packaging bruttissimi, e però il risultato è che c'è una personalità di marca seria, tranquilla, no? Un buon rapporto, insomma, è sempre, la pubblicità è sempre un poco, ancora adesso, un po' di meno, ma è sempre una... ancella, una serva del marketing, insomma, poi, no? Quindi anche se adesso le questioni si sono un poco più complicate, esistono dei prodotti che nascono puramente come progetto comunicativo e quindi poi le strategie di marketing gliele fanno dopo, oppure sono di demarketing e altre cose via. Diciamo, si è un po' tutto complicato, però questo, diciamo, mi interessa, mettiamo un punto su questa faccenda, insomma non usciamo dalla retorica anche quando razionalmente dice no, ma io non voglio fare, non voglio nessun esotismo, non voglio nessun erotismo, non voglio questo, non voglio quello, ma non pago nemmeno Aldo Presta per farmi il packaging, ma non pago questo, ma non me ne frega niente, è tutto un po' sciatto la cosa, e c'ha la personalità di questo tipo, cioè del prodotto razionalmente come dire comunicato perlomeno. Allora, quindi per questo dico che non credo che ci sia possibilità di gesto opposizionale. Un poco, diciamo, anch'io ho pensato a questa necessità, ma l'opposizione smontandola, standoci dentro, spiegando ai ragazzi come si fanno le buone pubblicità o le cattive pubblicità. Ecco, questo, in questo anch'io sono utopista, insomma, da questo punto di vista. E sono ben lieto quando mi arrivano dei prodotti, delle cose fatte da giovani che inevitabilmente se ne vanno fuori, oppure restano anche qui in Calabria e si capisce che ragionano e che hanno quella che chi era? Quello della bellezza del ragionamento. No, Hopkins, non mi viene. Va bene, poi ve lo dico. Allora, vi segnalerei, sempre per fare un poco l'avvocato del diavolo, vi direi le cose più ingenue di Laura, che sono all'inizio, che ci stanno perché insomma si capisce che può avere anche questo libro un utilizzo insomma di studio universitario, e devo dire, io sono tutte cose di cui non mi sono occupato perché le consideravo un po' scontate, però ne sento la necessità adesso mi pento, cioè adesso, no, non lo dico, non è una sviolinata, vi trovo tremende lo stesso, però il libro l'avrei utilizzato, perché per esempio quando vedo, tu l'hai visto su Facebook, Quella c'è una festa, della birra qui vicino a Di Pignano, con una locandina allucinante. Sì, con il culo. Ma è così, proprio a parte la bocca, è così sganghera, tremenda. E ho visto, ho perso questo tempo, ho visto che nelle passate edizioni non era così. Non dico, magari non c'è mai stato, che ne so, il visual di un boccali di birra, no? Che è la cosa più, la festa della birra, uno si immagina magari, no? Anche altri stereotipi, tedesconi con i baffoni, le cose, va bene, però uno pensa che ci sia in qualche modo un baffo di birra, una cosa, un boccale, no. Ho visto che c'è stato un peggioramento, e 2 anni fa non era così, le locandine, sempre non stiamo parlando di prodotti di agenzia, stiamo parlando di prodotti naif, autoprodotti da ragazzi, ieri uno di questi si è affacciato pure su Facebook, insomma, e forse proprio non si capacità e non ha capito, ma 2 anni fa non era a questo livello di barbarie, anche l'anno scorso non era così, quest'anno è proprio, guarda, io penso di averla... Allora, il peggioramento, allora, però questo anch'io non voglio commettere errori di semplificazione, però sono preoccupato perché anche questa è una considerazione paranoica, io considero il vostro saggio paranoico, nel senso che siccome sono passato per Lacan, la tesi di dottorato di Lacan era sulla psicosi paranoica, ve la sintetizzo, perdonatemi, Lacan fa il girmi nella tomba, insomma la questione, ecco, come vedete non leggo più e comincio, come dire, il demone fra un poco si impossessa di me, allora com'era? La questione, la paranoia è interessante perché ha una relazione con la verità. Allora, di Lacan ci sono 2 versioni, diciamo 2 assi, uno è isterico, raffigurato, attenzione, raffigurato dall'enunciato grosso modo moi la vérité je parle, e c'è il versante paranoico. Allora, due assi, non vi tedio, però che la paranoia sia necessaria nelle ricerche, questo è buono, cioè nel senso che se non ci fosse questo minimo che ci fa pensare ma quello, la mia ricercazione è giusta, è sacrosanta, avrà anche ripercussioni politiche, è pragmatica, no? Cioè, quindi noi se non fossimo sicuri di questo, se non ci fosse questo piccolo nucleo paranoideo, noi non scriveremmo, non ci sarebbe insomma nessuna ricerca. Credo che la scienza sia paranoica, insomma, in qualche modo. Poi ci sono una serie di ci sono una questione di, insomma, va dosata, su questo ci vuole un po' di bisogna essere un po' metacognitivi, cioè nel senso che no, comunque dice, oh, quello da Galileo, dico, cazzo, c'ho ragione, no? No, quindi vale per tutti questa cosa, no? Va bene, quindi lo dico in senso buono, insomma, buono, cioè nel senso, il nucleo paranoico va bene. Allora, che vi stava a dire? Allora, paranoico, ma stavo, no, mi sono interrotto, vi stavo dicendo di no. Cosa non va nel libro? Hai detto, hai trovato delle ingenuità? Sì, no, le cose, però poi finisce che sono, no, finisce che sono troppo lungo. Ci state ancora, fa caldo, non lo so. Vogliono convincerci a comprarlo con affermazioni più o meno veritiere sui suoi pregi. L'anima della pubblicità è una promessa non mantenuta nelle comunicazioni commerciali, non troviamo mai accenni alle debolezze, alle pecche, agli effetti collaterali, ai problemi eventuali della merce in questione. E dai. Chiedo troppo. No, e anche, diciamo, cioè, ti ribalterei la questione. Non solo, lì tutti i pubblicitari si lamentano su quelli che dicono plus e minus, poverielli su latini, così, punti di forza, i plus e i minus dei prodotti o dei servizi, no? E quindi tutti i punti di debolezza non solo vengono occultati, vengono capovolti, cioè, quindi è ancora peggio se pensate a questi, vedete il libricino, il mio, so come è tormentato, l'ho letto. O rosa è un codice, passiamo a Defcon 1, che la memenano le cinque signore lì, quattro signore attese. Allora, vedete, sono, diciamo, l'evoluzione della specie dei post-it, e voi la sapete com'è la questione dei post-it, vero? No? Qualcuno la sa? Donata lo sa? Ah, non sapete la storia dei post-it? I post-it, a parte la botta di, come si dice, Oxford, è che la 3M cercava una colla molto potente, aveva speso un sacco di soldi sulla ricerca di un colla, perché all'epoca le colle dovevano incollare, parliamoci chiaro, quella era tutta una cacchia, chi la attacca di più, chi attacca più rapidamente, quindi no, attack, bostic, cose, non era all'orizzonte, e pensateci, è un paradigma interessante, interessante, cioè nel fatto che, diciamo che, una colla schifezza, no? Quella è uscita fuori una colla schifezza, una colla ciofeca. E qualcuno si è accorto che però il fatto che incollasse poco diventava un punto di forza. Quindi, capito Laura, perché non ne usciamo? Perché è chiaro che a quel punto la personalità di marca, il branding, il naming, no? Tutte queste operazioncine qua, che nel mio piccolo mi è capitato anche di fare, no? Sono, cioè, allora, la colla riposizionabile, post-it, colla riposizionabile, è diventata un affare mega galattico, la 3M si è risollevata per una schifezza di colla. Questo è un paradigma che io racconto spesso. Si chiama, per non chiamarla culo, colpo, sì, di culo, sì, serendipidi, sì, no, ma serendipidi è anche un po' diversa, perché sì, insomma, poi ovviamente è stata perfezionata questa cosa, però insomma il fatto è che uno si è accorto che c'era un collo, c'era un usecchio di questa, e qualcuno passava, prendeva un fogliettino, lo attaccava al muro, e il muro non se ne veniva, la vernice non se ne veniva. Qualcuno ha capito questa dinamica e ha capito che i punti di debolezza potevano essere i punti di forza, quindi anche per questo non se ne esce, salvo appunto noi giocare nelle nostre decodifiche, smontaggi, ribaltamenti e fare anche quel po' di guerriglia che vedo che, insomma, che voi avete presente e segnalato. E, che dire più? Tra le cose più ingenue, adesso fatemi fare insomma un'altra soccana, no, piccola, credo che manchi quel guizzo francese, ecco, mi ripeto. Comincio a essere vecchietto e come diceva Eric Satie, che non è un sociologo, è un musicista a me molto caro, come vuole che un uomo della mia età non sia francese? Ecco. E quindi io in qualche modo lo sono. Andrea, mi fa piacere che te lo prenda a ridere, ma ecco, io sono francese in questo, perché insomma lo si diventa da vecchi. Così in scena un fantasma di, come dire, di nazionalismo, di cosa, eh? Lo so. Dunque, altrimenti detto, mancano Barthes, anche se in bibliografia l'ho trovato, ma sono passaggi, diciamo, non centrali, sono sulle cose dell'immagine e così via. Morin e Baudrillard, mi spiego. Perché i francesi? I francesi sono più vispi, no? E già nel 68, parliamo di Umberto del 68, da un lato la pubblicità viene accusata ad essere alleata del capitalismo e di rappresentare uno di quei mezzi abusivi di persuasione di cui Platone aveva già denunciato la presenza tra i sofisti e i retori, dall'altra viene coinvolta nel generale discredito che accompagna la cultura di massa. Nel 68... In entrambi i casi, ciò che nella pubblicità appare inaccettabile è la presenza immediata e quasi cinica del denaro. Vero è che il denaro entra dovunque, anche nelle opere di alta cultura, ma in quel caso è sublimato, tenuto a distanza, occultato, trasposto, mentre dell'opera pubblicitaria esso è il movente esplicito. Ciò che caratterizza un'immagine, un testo pubblicitario, è appunto il fatto di non poter mascherare la propria origine commerciale, a meno di far fallire lo scopo, che è quello di far conoscere colui che paga. Nel 68, siamo un po' tontoloni, ditemi di sì. Ancora, è un po' più di recente. Ma lui chi è Barthes? È Barthes, sì. Non vorrei santificarlo, ma insomma, però, cioè, mi inchino davanti alla prontezza di riflessi, perché questa cosa la intendiamo difficilmente adesso, nel 68 a lui era già chiaro. E ancora, questo sono un po' Morin, Edgar Morin e Baudrillard, e Morin che parla. La pubblicità utilizza, e qui siamo dunque, la traduzione, io leggo in italiano, cioè del 95, ma per Fayard uscì nell'84. La pubblicità utilizza dunque l'attrattiva estetica, che mescola all'attrattività ludica e alla desiderabilità erotica. Esiste così un'azione pubblicitaria il cui scopo non sarà quello di magnificare il prodotto, ma piuttosto di attirare su di esso l'attenzione simpatica di un pubblico riconoscente per il divertimento procuratogli. Quindi nell'84 c'è questa consapevolezza. Poi questa cosa la vedrete più, io ve ne faccio una ve ne do una copia, cioè queste tesi, una tesi di una mia ex studentessa, vecchia, molto carina, che è un po' su come si è trasformata, sulla scomparsa del testimonial, perché aveva in quel periodo sotto gli occhi quelle pubblicità dove, non so, c'erano le gallette di Orosaiva che dicevano queste sono la prima colazione di Pavarotti, e Pavarotti non c'era, e però c'era, no? E poi era anche un'operazione benefica, questo era interessante perché il ricavato veniva dato all'AISM. Oppure la Lacoste, dove le Lacoste non ci sono più, però dice questa è la Lacoste della famiglia Adams, no? E così via. Quindi quello era il periodo, era uscito in quel periodo, la trasformazione della pubblicità, il fatto che non si occupasse più dei prodotti, apparentemente, insomma, comunque si fosse spostato, che i prodotti sparivano e prevaleva la marca, ma poi sparivano anche i testimonial, adesso i testimonial vengono anche un po' derisi, cioè ci sono tutta una serie di giochi che sono più complicati forse di come l'abbiamo fatti noi. Allora, dicevo Morin, attirare l'attenzione simpatica di un pubblico riconoscente per il divertimento procuratogli. E se arriva persino a ridicolizzare il prodotto, allora sono perversi, no? Corrono questo rischio, trasformandolo in un personaggio comico, compensando i rischi del ridicolo con le possibilità della simpatia. I critici virtuosi ignorano il carattere ludico-estetico della pubblicità, suppongono che il consumatore consideri vero tutto ciò che vede in immagine e che l'efficacia pubblicitaria sia un effetto di indottrinamento. In realtà, se ne accorse anche Baudrillard, essa non gioca sulla persuasione circa le qualità del prodotto, ma su un effetto più generale che è quello estetico-ludico. E chiede prima di tutto riconoscenza per il piacere che offre, così rispondendo anche un po' alla questione molto seria posta da questo libro, dice: ma come anche nel periodo di crisi, com'è? Anche nel periodo di crisi c'è un aumento del billing, dell'investimento pubblicitario? Sì, è così. È così, questa se non è proprio in aumento, ma certo, insomma, no, non è in crisi, non è in crisi come lo è l'industria, come no. Questo, per questo è complicato. Io devo dire, non ho nemmeno le idee così chiare, insomma, cioè, intendiamoci. Poi, oltretutto, quando parlo non sono mai d'accordo con quello che dico, penso anche il contrario, perché quando poi vedo le locandine sulla festa della birra, io dico: no, questo libro adesso me lo facciamo circolare, glielo diamo gratis, vaffanculo. E vaffanculo, insomma, cioè, capito? Quindi ci sta che io vi faccio un poco da contraddittore, insomma, però poi in realtà, se la situazione è questa, se quello che quel verme di Arcore ci ha lasciato, come estetica, come, no, come cose, e questo, cioè, peggiorano anche le stupide locandine di una festa della birra di Pignano. Questo mi interroga. Allora, vediamo allora com'è la questione del rispecchiamento, Corradi, capito? Perché la pubblicità sa essere molto meglio, no? Molto più raffinata, molto più cosa. E poi però ci sono i fraintendimenti, quelli in basso, che allora quello sì sono uno spaccato sociologico devastante. E guardate che su Facebook, parlando di questa cosa, ieri erano incazzati come iene, perché hanno beccato delle critiche, perché gliel'ho fatte io, e soprattutto delle ragazze che erano collegate hanno detto: oh, ma siete scemi. Io salomonicamente poi ho proposto fate una cosa, ma siccome questa locandina è una schifezza, fate una cosa, a modo di risarcimento, chi viene, le donne che vengono alla cosa non le fate pagare. La bionda, tremenda, la bionda. Cioè, oppure possono devolvere una parte del loro guadagno all'associazione di violenza. Sì, prego, mi fa piacere. Sì. Sì. No, ma cioè, non per difendere i ragazzi di Pignano. Ma la locandina l'hai vista? Ah, mamma mia, pura. No, c'è anche l'università. Sì, sì. E mi preoccupa. Josi, preoccupa. No, vabbè, ma non è a questo livello. No, ma perché mi preoccupa? Perché. Mi preoccupa, no, ma non è per il sederino. Il problema è che, scusa, la questione è questa: non è che io difendo. Diciamo, che ne so, lo spot di col Teron della Martini con il vestito che si sfila è di una bellezza inaudita, e quindi io inviterei allora, però il problema è che quella cosa è proprio di una volgarità, sono le virgolette che mi fanno più ancora più impressione. Ve la diamo fra virgolette, poi gratis. È una cosa che vuol dire che ci sono italiani che si sono bevuti il cervello, cioè che non sanno. Quello mi interroga. Quelli sono dati, come dire, no, su cui. Cultura, sì, dici, insomma, De Mauro è preoccupato, chi si occupa di ricerche, credo che abbiano motivo di preoccupazione. Ora. Sì, questo, diciamo, per antifrasi va bene. Ancora un attimo, poi vi lascio. Vabbè, le citazioni peggiori sono quelle di Umberto Galimberti, non so perché, c'è un'aria pensosa alle cose, ma insomma delle cose. Sembra tanto un cagnolone buono, a me sta simpatico, però poi copia gli scritti di altri e spara delle cazzate. Ogni pubblicità è un appello alla distruzione, ma dai. Poi c'è un aforisma del gruppo Marcuse: i pubblicitari sono mercanti di sabbia che lavorano per espandere il deserto. Il consumismo come miserabile surrogato della religione, vabbè, questo è ancora il gruppo Marcuse, vabbè, ma io sarei pure d'accordo. La pubblicità è un'ideologia che ambisce ad occupare il vacuum lasciato alla religione, vabbè, che questa cosa sì, ci sia questa dinamica, io sono d'accordo, ma insomma... come sacerdoti che ci spingono verso quelle cattedrali che sono gli ipermercati... Ma tale sistema è lo specchio di un sistema di disuguaglianze che si sta svelando agli occhi del mondo, e forse un giorno, coi carrelli vuoti, le persone inizieranno a incontrarsi, a vedere oltre le merci sugli scaffali, a pensare di non volerne più. Mi si perdonerà, sto facendo dell'ironia sul tono apocalittico di certi enunciati. Ora vi dico, non meritevole di essere inserita nelle cattive pratiche, in quelle bestiali, ma nelle beste, che anche il libro annuncia, e ve lo auguro di tutto cuore, cioè dice, questa è una raccolta un poco delle peggio, quelle più stessi... Ce ne sono di peggio. Però vi ripromettete di fare le best, anche diciamo un censimento di quelle buone, delle pubblicità un po' meglio. Giusto, io l'ho visto da qualche parte questo almeno questo buon proponimento. Io direi che è una maglia stretta in cui è incappata la cosa, lo spot della vecchia ambassador, e non sapevo che era questo, l'ho scoperto grazie a te, in India, trasformata in Peugeot 206 grazie a un muretto, all'elefante che ci sia cose e un po' di buona volontà, non ve lo ricordate? Cioè, ste macchine, io sono invidioso del tuo approccio transculturale, cioè le cose, cioè in India, io non vado oltre di Pignano, capito? Quindi, se tu ci... Sì, io vado a di Pignano, oltretutto sono incazzato perché io mi occupo dei cani di Pignano, per questo quelli della... i signori della birra li impiccherei, cioè perché... Insomma, va bene, allora... No, quindi ho scoperto che quella è un ambassador, l'ho trovato sul tuo libro ora, è quello spot, e io ho visto che tu, insomma un po' en passant, hai parlato di 45 secondi magistrali, ve lo ricordate quello spot? Sì. I ragazzetti, che cose, devono sedurre, tutti i cliché, tutti, giustamente, ci sono tutti, però poi il prodotto comunicativo è diverso. C'è un bellissimo ragionamento, funziona, è carino, e credo che facciamo male a supporre che sia influenzante, e questo è un po' un problema poi più radicale che non riusciremo a discutere stasera. La stessa cosa la dico a Vincenza. Il vecchio manifesto della Barbaro Zucca, commentato così, le donne sono spesso ricondotte a caratteri quali remissività e docilità, ne viene sovente accentuata la presupposta indole servizievole e un raffinato erotismo che rinvia la figura della geisha. Anche questa mi è sembrata un po' un'idea, una lettura poco paranoide, perché quelli alla Barbaro Zucca gli serviva una zeta sì, ma è orientale, perché sto cavolo di rabarbaro sembra che venga dalla Cina, dici che i mongoli, c'è una cosa di questo tipo, ma ci si poteva mettere un uomo. Ok, io sono d'accordo. Io sono d'accordo, ma tu, però tu, cioè, mi devi intendere. Vince. Insomma, è un poco. Non, nella riedizione, facciamo così: nella ristampa, nell'emendata e aggiornata, implementata le cose. Un rabarbaro zucca, non ci mettete, secondo me, nemmeno il culetto del coppertone, cuca barboncino, le cose, anche se. Sì, ce l'avete come effetto pedofilo, e anche quello, no, ma in generale se ne può discutere, io non sono così assertivo le cose, un poco mi scappa da ridere, io vi consiglio di non mettercelo, non ci mettiamo lo spot della 206, non ci mettiamo zucca, e che cosa, salviamole, va? Ma anche su... La Barilla sì, insomma, avete ragione, insomma, e quindi fate bene a diffidare. Cioè, guardate che anche quando mio marito è un cuoco Barilla, no? Cioè, ci sono pure queste cose, guardate, non ci credete, con Nelson Piatti li può lavare lui, non ci credete, Mastro Lindo, sì, ok, e va benissimo, per questo andrebbe, sì, avete ragione, però attenzione, questo a me mi sembra che vi sfugga, no? Il piano della significanza, cioè io, sapete che cosa odio proprio assai della Barilla? Le musichette, che sono anche migliorate, l'ultima era Mina, la voce fuori campo, le cose, il testo è molto bello, oltretutto questo sui figli, le cose, stereotipatissimo ma molto poetico, un salto, proprio un grosso salto rispetto alle pubblicità della Barilla di 20 anni fa. E quello che non ho mai sopportato sono Vangelis, e anche Cacciapaglia e altre cose. Quelle cose, quelle atmosfere melenze, quelle sono un suicidio. Sì, ma te l'immagini, cioè da andare, capito? Sì, allora, questo un poco, perdonerei anche l'Acqualilia con i giovani sin da giovani, perché insomma è evidente il paradosso temporale, anche se ci sta la sottolineatura di quello che voi chiamate ageism, bello. Non togliamo per favore il Carl Lewis, la potenza è nulla senza il controllo, perché è un ragionamento troppo bello, perché secondo me non l'avete decodificato bene. Allora, scusate, ce l'avete? Sì, sono i soggetti, diciamo, italiani, che sono piccole variazioni. Allora, secondo me proprio avete fatto una decodifica aberrante, perché voi se avete sottolineato le natiche che manco si vedono, quando invece il punctum sono i tacchi a spillo, e che proprio per antifrasi sorreggono lo slogan, grazie anche a uno spostamento tra scarpe chiodate dell'atletica e spillo dei tacchi a spillo. Quindi è l'enunciato, per questo io dico, insisto, la pubblicità è una retorica verbovisiva, ma dovete prenderla insieme in come si imbricano. Non possiamo valutare la figura retorica testuale e poi quella visiva, vale per quello che è. Allora, se lì ci sta Carl Lewis, non ce l'ho, insomma, guardatevelo. Atletico, vabbè, al solito quello che sappiamo, cose, poi vabbè, poi il contesto può dire che forse è gay, non lo so, insomma, cioè, non lo so, cioè, però diciamo, boh, sì, circolo a voce. Hai trovato una citazione, tu dici, proprio da questa cosa, sì. Allora, power is nothing without control. Vedete che è particolarmente interessante questa cosa, cioè perché con un gesto sintetico, con quella, è l'unica cosa buona poi della pubblicità, è quella di essere breve, di un prodotto di sintesi, senza farci vedere i pneumatici, questa è un'altra cosa, perché è immolata in una specie di potluck. Dice, caspita, queste pubblicità costano care, no? Cioè, nel senso che è un manifesto di cose di questo tipo. E dice, e voi siete così ricchi? Sì, è così, o correte il rischio di nemmeno far capire che sono i pneumatici Pirelli, no? Eppure ci sono. Ecco, perché è chiaro che ai lacaniani queste cose piacciono, perché è prevalente lo scivolamento del significante, l'evocatività dei linguaggi, no? E la potenza è nulla senza il controllo, e c'è questo signore sui tacchi a spillo. Mi frega poco se c'è la sauvagerie, se sì, il nero, poi l'avete commentato anche secondo me proprio con una decodifica aberrante subito. L'ennesima metafora di supremazia bianca e maschile sulla natura. No, secondo me no, cioè non ci sta, questa cosa non ci sta. Allora, stessa cosa per il Martini, Charlize Theron, non lo possiamo vedere. Ci sta tutto, l'eterosessismo, la classe, l'età, il giovanilismo, i ruoli stereotipati, il culo femminile, ma c'è pure Godard, Onassis, un bianco e nero che non è solo un background per fare meglio risaltare il marchio Cinzano, c'è un umorismo raffinatissimo che a volte vi sfugge, e un gran pezzo di metacinema. No, e beh, è uno spot. Vedi solo la signorina con il vestito che si sfila, quello che si sfila. Aspetta, te lo trovo. Ma qui vedi solo, ecco, guarda. Guarda qua, è lo spot che è bello. Se tu dici, vabbè, questo ancora una volta si specula sul culo, no, d'accordo. Però lo spot invece No, ma ci sta tutto, va benissimo. No, io vi dico semplicemente, tenete conto delle forme, di ciò che si inscena come significazione, non solo come significazione, come messaggio a cui lo vogliamo ridurre. Ve lo faccio spiegare meglio da Blumenberg, questo che io amo più forse che la sociologia. C'è uno scritto che si chiama Pensosità, e parla proprio della morale della favola, parla di Esopo, di cose di questo tipo, e più o meno conclude così: la pensosità si manifesta anche nella sproporzione tra favola e morale. Si vorrebbe quasi credere che gli epimitia siano stati inventati, cioè, insomma, quindi le favolette. No, che cos'è? No, bella, no, non me lo ricordo. È un'altra marca concorrente. Che le favolette siano state inventate proprio per dimostrare agli ascoltatori e ai lettori come ben poco si ottenga dal trarre una morale dalla storia, da ricondurla a una frase conclusiva e comodamente trasferibile, e come invece sia essenziale raggiungere una condizione di pensosità che protegga da queste frasi. Blumenberg, cioè, praticamente ci ha capovolto la questione del il vizietto che ci abbiamo di trarre la morale dalla favola. La favola, in questo caso quello spot, diciamo, fatemi passare l'analogia, è molto meglio, è molto di più della morale che se ne vuole trarre, della morale pubblicitaria che se ne vuole trarre, anche perché a volte non c'è nemmeno quella morale lì, non è esplicitata, implicita, lavorerà. Non guardo la pubblicità come un oggetto d'arte, e non potrei, visto che questo libro ne svela tutte le miserie, ma come oggetto culturale sì. E a volte rare, insomma, gli spot sono meglio dei film che interrompono, insomma, anche questo è un troppo, però. Condivido l'impianto marxista, e tra le varie intersezioni, generi, classi, razza, eccetera, aggiungerei la specie. Io mi definisco marxista animalista, infatti, e chi mi conosce sa. E quella è una palestra etica, una palestra creaturale, buona di per sé, ma è anche un allenamento nei confronti dell'arrivante, di qualsiasi tipo, razza, età, specie. André, so che, insomma, ovviamente è di questo partito. Palestra di ospitalità. E penso con Zizek che ci siano delle cause perse, che valga la pena di reiterare, che valga la pena di riprovarci. E in questo, Slavoj, è chiaro, il comunismo è il problema, non la soluzione. Zizek lo dice con lo scudo di Beckett: fallisci di nuovo, fallisci ancora, fallisci meglio. Da qualche parte mi sembra che evochi pure un superio più gentile, e questa è una sottolineatura che vi lascio così. Complessivamente direi che è un libro molto aggiornato, che tocca anche campagne recenti, come quella del consulente riduzione costi su Polo, è bellissima. Io anche quello lo risparmierei, perché mi sembra un furore interpretativo che quella macchietta chiamata Be Right, non so, l'avete vista in onda adesso, Be Right, sono il consulente riduzione costi, che cosa? Dice, ah, togliamo questo bullone. E loro sei, dicono, no, non lo togliamo il bullone. Non mi sembra che utilizzi gesti e gergo tipici della cultura afroamericana. Insomma, mi sembra anche questa una forzatura. A me sembra una scenetta umoristica a cui tanti Carosello ci hanno abituati. E il caratterista non è altro che un'intersezione tra Dan Aykroyd e Danny DeVito. Si allunga comunque il libro anche su, appunto, il parassita della società, veniva citato, quindi tutte campagne abbastanza recenti. Il lusso è un diritto, quello col signor Bellucci. E queste sono analisi oltretutto condotte senza troppe forzature. Vi volevo salutare con una citazione di Robert Balzer, che ritengo pertinente a chi pratica studi intersezionali di tipo sociopolitico, quindi genere, classe, età, eterosessismo, fattori di ciò che producono ruoli. È tratto dall'Assistente del 1908, poi tradotto in italiano nel 1961. Ma che gente era? Lui era medico e per giunta giovanissimo, e lei non rappresentava se non la conferma femminile di essere la moglie del dottore, nient'altro. Era la moglie di suo marito e come tale fu tutta la sera timida e quieta. Vi ringrazio. Siete ancora qua tutti, incredibile. Grazie Massimo per... Sono stato lungo. Un po', però... Ho letto. Stavo cercando di sintetizzare quali sono, no, in questo, non so, 40 minuti di relazione veramente, 40 minuti, 40 minuti poderoso. Veramente poderosa. Sintetizzare quali sono le differenze. Allora, una prima differenza grossa tra il nostro approccio e quello che ha detto Massimo Celani sta un po' in una sua affermazione che è non se ne esce. Come vedi Laura, da qua non se ne esce. Anche se la mettiamo così, non se ne esce. Ecco, io invece penso che dalla pubblicità, dal linguaggio pubblicitario. Non se ne esce dalla retorica. No, non se ne esce dalla retorica. Ecco, io penso invece, come lacaniana, non voglio che diventi una lotta tra lacaniani, però... che la sovversione del soggetto passa anche attraverso questo evitamento dello specchio a un certo punto. È vero che serve un certo... lui mi aveva scritto una mail, mi sembra la vostra una costruzione critico-paranoica. E discutendone con Vicenza Perilli oggi pomeriggio, io a un certo punto ho detto, a me sembra critica, certo un po' di paranoia ci vuole, ma soprattutto critico-paranoico ironica, perché noi abbiamo usato l'ironia per smontare, no? E abbiamo affinato il nostro sguardo per vedere laddove di solito non si vede. Questa pubblicità che guardavamo prima, la forza, ecco, no? È chiaro che qua si può dire molto. È la forza, no? I neri sono visti per la loro forza, vincono le Olimpiadi per, no? Per la loro musicalità, per eccetera. È chiaro che la forza non è nulla senza controllo. Di chi è il controllo? E secondo me... Non sbandare su strada tramite dei pneumatici. Sì, però il fatto che mettono un nero con le scarpe, con i tacchi a spillo... Produce anche tacchi a spillo, di gomma. Sì. Cioè, abbiamo voluto affinare, diciamo, sì, al di là degli orpelli, abbiamo voluto affinare lo sguardo sui rapporti anche di razza che sono sottesi a una pubblicità come questa, fatta da pubblicitari evidentemente bianchi, così come sono evidentemente maschi quelli che dicono te la diamo gratis e mettono il culo della ragazza per pubblicizzare una birra, no? Cioè, è chiaro che lì lo sguardo è maschile, è diretto ai maschi e usa il corpo della donna per erotizzare anche la birra. Qua c'è uno sguardo bianco sul corpo nero, che è uno sguardo invidioso, che è uno sguardo anche inconsciamente affascinato dalla negritude, da quello che è, no? Dalla nerezza, dalla potenza. Prevale l'ironia, guarda, perché lì... Per me prevale la competizione qua, cioè l'elemento principale qua è la competizione. Esattamente, proprio il punto, anche lo vediamo in bianco e nero, diciamo. I tacchi a spillo, i tacchi rossi, sì. Quindi quelli tu vedi solo quelli e dici, oi boh, e capisci che è un gioco. Sì, ma è tutto un gioco la pubblicità. Il problema è questo. Il fatto che sia un'architettura che sta in piedi. È possibile, questa è la mia domanda, poi magari diamo spazio al pubblico. È possibile... quello che io chiedo all'inizio, ma anche alla fine, rovesciare questi significanti dispotici, è possibile farlo? È possibile entrare dentro questa logica, questo gioco, e dire che comunque non è il nostro gioco. Non è il nostro gioco perché non accettiamo alcuni degli assunti, che sono quelli della sottomissione, che sono quelli della dicotomia, che sono quelli anche quando fanno vedere il cibo per i gatti, il cibo per i cani. È chiaro che non si pensa davvero al cane o al gatto, si pensa al narciso, all'ego del proprietario del cane o del gatto, no? Allora è possibile entrare dentro questo meccanismo e smontarlo dall'interno? È possibile capire i significanti dispotici e rovesciarli? Quando noi parliamo di guerriglia semiotica, è possibile effettivamente, utilizzando anche talvolta questi linguaggi, rovesciarli e ridicolizzarli per quello che sono? Sono d'accordo moltissimo con quello che diceva Roland Barthes, cioè che una cosa che la pubblicità non può nascondere, può nascondere tante cose, appunto i non pregi, i difetti, delle merci, eccetera, ma non può nascondere chi è che paga. È lì chi è che paga. Lo fanno nella letteratura, oggi la Shell, per esempio, fa fare dei libri sul futuro, dove i personaggi a un certo punto devono risolvere un problema e arriva il tecnico della Shell che glielo... Cioè, e tu leggi e dici, questo libro è la pubblicità della Shell, e lì non è pubblicità. Quindi la pubblicità ha già trovato altri veicoli, cioè, non dove non c'è la firma, non è riconoscibile perché non c'è il format, perché non c'è il format della pubblicità. E così come è vero quello che tu dici, la pubblicità non vuole più solo venderci degli oggetti, oggi la pubblicità vuole darci gratuitamente un'esperienza, ed è regalandoci quell'esperienza, quell'emozione, giocando con i nostri sentimenti più profondi, con le nostre insicurezze, con i nostri bisogni, che si innesta fra i nostri ricordi. Quindi è questo, secondo me, che avviene, e secondo me è possibile evitare di specchiarsi dentro queste meccaniche, leggere i codici, rovesciarli, ridicolizzarli, come fanno le studentesse quando fanno le scritte sulle pubblicità. Vi ricordate le pubblicità TTT Lines con tutte le ragazze senza mutande che salgono sulla nave, no? La nave di ragazze bellissime, seminude, che vanno da chi? Vanno dal sultano, evidentemente, era il periodo dei festini del Verme di Arcore, no? Quindi è chiaro che c'è dietro tutto un immaginario, no? del sultanato, dell'avere tante donne, magari donne che interagiscono tra di loro, no? C'è tutta. Se l'Italia è una repubblica oggi democratica, autoritaria, sul piano politico, sul piano di genere, è un sultanato, è ancora un sultanato, e ha tutto l'immaginario del sultanato. Cioè è possibile, secondo me, rovesciare queste cose? Quando le ragazze scrivono con le bombolette o stampando "metteteci il vostro culo" su queste pubblicità, è chiaro che stanno riappropriandosi del proprio corpo, stanno dicendo: voi col nostro corpo dovete smetterla di giocarci, è nostro. È chiaro che è un discorso, magari tutto il mediattivismo delle giovanissime, tutto il subvertising delle giovanissime, cioè secondo me ha un suo significato, anche importante, di persone anche molto giovani che non vogliono più sopportare di essere utilizzate, inferiorizzate, e di doversi specchiare in qualcosa che loro sentono profondamente altro, che non le riguarda. Io raccoglierei domande e altre reazioni anche delle autrici. Ce n'è una là in fondo, una signora. Facciamo una domanda un'autrice, una domanda un'autrice, vi va? Ok, vuol venire qua? Sì, perché se no non si registra, no, si deve registrare per la radio. Grazie. Come autrice vuoi dire qualcosa tu, Vincenza, poi? Tutti e due insieme. E in questa presentazione, che altro non è che una pubblicità dell'antipubblicità, vedevo che mancava un aspetto della pubblicità, che non è la pubblicità chiara, quella che vediamo in televisione, sui giornali, cioè il mitizzare quello che abbiamo sempre creduto come un mito, appunto, che ne so, attraverso il cinema, attraverso il teatro, delle realtà che pensiamo sono nate come tali, in realtà no. Ad esempio, combinazione, mentre ascoltavo ho visto un libro lì, che è Storia illustrata di Cosa Nostra, cioè quella è il massimo della pubblicità di quello che non è, cioè parte dalla storia dei Beati Paoli fino alla cosa nostra di oggi, che non rispecchia assolutamente cos'è la mafia. Cioè non si parla di colletti bianchi, no, c'è questa mitizzazione della setta, e poi si passa ai personaggi importanti, il padrino di Puzzo, insomma, no? E il Massimo, quindi c'è una fascinazione da parte del lettore già, e cioè, siamo nel 2012, ancora si parla del mito del boss, e per esempio ciò non va, questa è pubblicità. Però io vedevo che mancava ad esempio questo aspetto. Cioè, l'ho vista un po', cioè non voglio risultare presuntuosa, però un po' banale all'inizio. Poi si è capovolta la situazione con l'intervento di Celani, cioè quindi sembrano i buoni i cattivi, e quindi cercava di bilanciarsi un po' la cosa. Però penso che bisogna pensare un po' più internamente al significato di pubblicità, cioè non è proprio quella della televisione. E poi non è nemmeno detto che sia tutta così malvagia. Ad esempio ricordo uno spot dell'Air France di 2-3 mesi fa, che non si è visto nemmeno tanto, dove c'erano due ballerini di danza classica con Mozart di sfondo, e quella per me poteva anche essere arte, cioè c'era un pensiero dietro, è veramente fatta bene, e passava il messaggio della leggerezza della compagnia aerea, del volare. Boh, però io in realtà, cioè, oltre a questo, perché si diceva non è arte, quindi è solo consumo, e non penso, cioè anche il significato maggiore della pubblicità, qualsiasi cosa è pubblicità, un film, e mancava, cioè soprattutto perché mi aveva colpito combinazione sto libro, quindi. Grazie. Sì, no, è istigazione al consumo che usa l'arte, evidentemente. Vogliamo la signora e poi c'è la Donata. Posso? Sì, può venire. Allora, dunque, quando io dicevo a Massimo, adesso Radia, ti ricordi, forse qualcuno si ricorderà, la pubblicità della Esso che aveva dunque per automatico. E poi c'è. E qua? Ah oui, tutti e due? Oh là là. Bon. E allora c'era una tigre, e allora il massimo insulto fra i figli, come dire, un po' dell'università, se vogliamo, no? Che poi c'erano anche dei ragazzi del territorio. Diciamo il chestep, no? Il massimo insulto, cioè mia figlia, quando diceva a Lorenzo De Giulio, te sei un esoradial. E questo era proprio il massimo del massimo, era il consumo, era, come dire, la menzogna, era, come dire, e niente, era il capitalismo, il brutto capitalismo, ecco questo. Era semplicemente questo piccolo inciso, se no io credo, io vorrei veramente, io muoio della voglia di leggere il vostro libro, e io ho trovato gli interventi estremamente interessanti. Grazie. Grazie moltissimo per il suo apprezzamento. Siamo in chiusura, però c'è ancora un intervento di Donata Chiricò, sì, che farà un intervento conclusivo a questo punto, se nessuna delle autrici vuole avvalersi del diritto di replica. Prego. Fai tu il diritto di replica. Tieni tutte e due. Io veramente avevo finalmente una domanda, se posso. Però se volete chiudo io, cioè, nel senso, ho presentato questo libro ad Amaroni. Quindi era una situazione abbastanza surreale che non, insomma, vi avrei consigliato obiettivamente da un punto di vista antropologico, compreso il parroco, il sindaco ritardatario e altro. E, allora, io devo dire che mi è piaciuto molto sentire questa cosa questa volta come pubblico, sentendo anche Massimo, che è un mestierante di pubblicità e quindi mi ha dato degli elementi ulteriori in più rispetto al lavoro che ho fatto io. Posso dire una cosa per chiudere, che sembrerà banale, ma il libro è bello. Ogni libro è migliorabile, ogni lavoro umano è migliorabile, quindi penso che alcune cose che ha detto Massimo sono insomma, è importante tenerne conto, naturalmente. Ci permette anche di prendere... permette a voi e un po' a me, che me ne sono un po' innamorata di questo libro, anche di fare un po' un passo indietro e vedere come rideclinare quest'amore alla luce di una nuova consapevolezza. Quindi penso che questo sia un esercizio importante, e credo che invece ridico una cosa che ho già detto ad Amaroni, che è un libro soprattutto importante da far leggere alle generazioni più giovani, che sono quelle che appunto che sono tutto specchio, che non sono ancora pensiero, sì. Purtroppo, e quello è il danno maggiore. Cioè, noi siamo adulte, scolarizzate, intellettualizzate, i danni che quel tipo di messaggio fa su di noi sono relativamente minori. Ci sono due grandi posti in cui queste cose fanno danni: le case delle persone, le casalinghe che stanno in casa, le persone, diciamo, come dire, meno abituate al confronto per un fatto anche di stile di vita, e le giovanissime. Credo che questo sia il più grande rischio di questo tipo di messaggi, su cui vanno benissimo tutte le analisi che ci ha indicato Massimo, ma vanno benissimo per gli intellettuali, appunto. Questo è il problema. Quelle cose arrivano là in maniera iconica, diretta, e agiscono, imprintano i cervelli. Questo è il grande problema. Per noi è più facile. Per chi recepisce senza un pensiero costruito dal punto di vista della guerriglia semiotica, o della critica, o dell'analisi, della capacità di scomporre, per cui secondo me da ottobre in poi forse i posti migliori dove presentare questo libro sono le scuole superiori. Bene, grazie alla professoressa, amica e filosofa Donata Chiricò, e ringraziamo tantissimo Massimo Celani per il suo sì, contributo. È andato a prendere la moglie, è fuggito. Comunque lo ringraziamo moltissimo, potrà sentire i nostri ringraziamenti su Radio Transizioni di Fase. Ringraziamo Massimo Celani per averci offerto generosamente un supplemento di riflessione rispetto al lavoro che abbiamo fatto e alle nostre analisi, anche in futuro magari in vista dei prossimi lavori. Ringraziamo gli amici della UBIC che ci hanno ospitati qua, ringraziamo Gianni Olivieri, Fabio, Valentina, Alberto e tutti coloro che sono stati con noi questo caldissimo pomeriggio per alcune ore a discutere con noi di questo libro che vi invitiamo a comprare. Sono 106 immagini e solo 13 euro.